visto lì con gli occhi senza parole, a bocca stretta e un nodo in fondo al cuore. La gente urla ma tu senti il vuoto che fa male, perché il rumore vero è un frammento di dolore. Hai stretto i pugni come fosse colpa tua, ma tu comprendi il coraggio e la paura. E anche se vale solo chi rimane davanti, tu resta in piedi quando cadono tutti quanti. E lo so che brucia come sale sulle ferite, quando da solo affronti le tue salite. Ci sono giorni che sembrano senza via d'uscita, poi gira il vento e cambia il corso della vita. La lezione più grande non è mai la vittoria, è restare in piedi quando cambia la storia. Non è chi arriva primo a valere davvero, ma chi perde riparte e non cambia sentiero. E se oggi ti senti secondo al mondo intero, io ti giuro figlio mio, sei il mio numero uno per davvero. Vincere non è lo scopo della vita, perché ogni volta non è solo una partita. È il tuo sogno che ti chiede di provare, perché è la fatica che ti insegna ciò che vale. Perché la gloria dura solo un momento, e ciò che impari non è quando hai vinto, ma quando senti il vuoto di una sconfitta intera, quando sei solo appena arriva la sera. Ti fa scoprire la forza dove pensavi non ci fosse niente. Ti fa scoprire chi sei quando tutto il mondo è assente. La lezione più grande non è mai la vittoria, è restare in piedi quando cambia la storia. Non è chi arriva primo a valere davvero, ma chi perde riparte e non cambia sentiero. E se oggi ti senti secondo al mondo intero, io ti giuro figlio mio, sei il mio numero uno per davvero. Un giorno capirai che certi treni non si prendono correndo, ma restando in piedi anche quando ti tremano le gambe. E non vergognarti mai di una lacrima sul viso, è il segno che hai lottato non perdendo mai il sorriso. La lezione più grande non è una stella sul petto, è la prova che hai dato anche quando sei stato sconfitto. La vita non prendi a chi sorride soltanto, ma chi perde continua con coraggio e col pianto. E se oggi ti senti secondo al mondo intero, ricordati figlio mio, il valore non è un podio davvero. E domani si ricomincia, perché i campioni non sono quelli che vincono sempre, ma quelli che non rinunciano mai.